21. Stridore di ruote cerchiate su ciotoli e lastre di granito. Fracasso di assali su buche e canali di scolo. Ferri di cavallo sul lastricato. Urla di vetturini, richiami di venditori, piante di bambini. Violini scordati, canzoni ubriache. Litanie di mendicanti, rosari strascicati di lamentazioni incessanti, scuotere di bussolotti e spiccioli. L'aria feriva l'olfatto e l'udito, ma anche la vista doveva attraversare una prova. Corpi di miserevole bruttezza, rivestiti di cenci, impegnati in oscillazioni del capo e del tronco, regolari come un pendolo, gesti buoni per tenersi caldi, più che per impietosire il prossimo. Batter di denti, imprecazioni, litigi per una bottiglia, adunate macilente, elemosina accordata più per timore che per compassione. Sembravano vagare come larve inquiete all'avventura. Dalle finestre mani distratte gettavano avanzi. Mendici raccolti in patetiche orchestrine strimpellavano e ululavano, accennando passi di danza. I più fortunati difendevano miseri domini personali, quasi un'autorità avesse concesso in perpetuo un angolo di strada, un pezzo di lastrico. Quale che fosse la condizione toccata in sorte, uomini e donne mostravano tutti lo stesso colorito cinereo. Come se il cielo lattiginoso che gravava sulle teste avesse preso possesso della carne. Ognuno, mendicante o vetturino, servo o signore, sembrava perduto in un'occupazione di importanza vitale. Ma non si trattava che di prolungare a tempo indefinito l'esistenza. Mangiare abbastanza per non crepare di fame, bere abbastanza per non pensare, avere addosso abbastanza stracci per non morire. Philip camminava lungo Drury Lane, diretto a nord, dove la città finiva. A tratti tornavano alla mente le frasi della lettera scritta dal capo degli indiani di Londra. «I cosiddetti onest'uomini ci considerano selvaggi e amano attribuirci le più crudeli malefatte, per poi ricordarsi di noi quando hanno bisogno di carne da cannone». La vita brulicava di ogni genere di persone. La pancia della capitale si apriva a lurida e vociante, aria pregna di polvere e di carbone, greve di feci umane e animali. Aveva percorso i primi 100 passi con un fazzoletto bianco accostato al naso. Dopo poco, però, aveva rinunciato al velo protettivo per non dare troppo nell'occhio. L'ultima cosa che voleva era attrarre l'attenzione. Gli sguardi già si fermavano su uno straniero che nascondeva parte del volto, la pelle ramata dal sole. Camminare senza metter piede su merda di cavallo, del resto, era già un'impresa. Inutile renderla più difficile. «Un tempo eravamo anche noi un popolo fiero e coraggioso». Ma gli onest'uomini ci hanno sottratto la terra e con essa boschi, alberi, animali e acque, costringendo i nostri nonni ad abitare quartieri malsani e a divenire servi, un destino che gli inglesi d'America vorrebbero riservare anche al vostro popolo. Giungere alla fine della metropoli, poi alla campagna, la stessa che aveva intravisto a Vauxhall, riempire i polmoni di aria buona e rinfrancare il corpo, messo alla prova non solo dal fumo e dalla puzza, ma anche dal cibo e dalle bevande. Bere acqua significava assorbire il flusso disgustoso che correva nelle tubature sotterranee in legno dolmo, esposte a ogni sorta di lerciume, forse anche a quel che saliva dal Tamigi, liquame contaminato da tutta la sozzura di Londra e Westminster. Oltre agli escrementi umani, in quelle acque erano diluiti gli acidi, minerali e i veleni di officine e manifatture, per non parlare delle carcasse di animali e uomini e gli scarichi di vasche da bagno, cucine e urinatoi. Philip, che odiava l'ebbrezza, aveva dovuto piegarsi alla birra, il meno deleterio dei liquidi che dissetavano i londinesi. Il corpo iniziava a gonfiarsi e dolere. Sentiva il bisogno di respirare, trascorrere una giornata da solo, nei campi attorno a Londra, magari approntare trappole, catturare un uccello, dormire sotto un albero. All'incrocio di High Holborn Street, alcuni ragazzini lo circondarono. Scappellandosi e tenendosi le mani, mostravano di voler chiedere l'elemosina. Uno di questi estrasse un piccolo pugnale, tanto per sollecitare lo straniero a non essere parco nel donare ai poveri. Philip mostrò loro il grosso coltello da caccia che teneva nascosto sotto la giacca. Imprecando, la muta di ragazzini ruppe l'accerchiamento. Quello che sembrava il capo, un moccioso dal pelo rosso e arruffato, gli lanciò uno sguardo carico d'odio, lo sguardo di una bestia cattiva. Quando i ragazzini sciamarono lungo Red Lion Street, Philip riuscì a vedere il volto del capobanda per ciò che era. Tratti che si sommavano nel presagio di un destino incombente, occhi senza speranza, una fine inutile come unica certezza, l'abitudine a se stessi come unico conforto, l'inverno non lo avrebbe risparmiato. Più avanti, una famiglia di disperati trasportava una cassa di legno inchiodata alla meglio. L'uomo, di età indefinibile, piangeva. La donna, scheletrica e coperta da uno scialle nerastro, aveva un'espressione attonita. Reggendo il fardello, procedevano a passi malcerti. Dietro veniva una torma di bambini seminudi. Un cane monco barcollava su tre zampe. Al loro passaggio, qualche anima pia levava il cappello o dava calci al cane. Era un corteo funebre. Philip si augurò di raggiungere presto la campagna. Il viaggio si rivelava insopportabile. Il peso che opprimeva il petto era compassione e disgusto. A quanto aveva udito e letto, nel corso degli anni la città non aveva cessato di ingrandirsi, precipitato urbano dell'impero. «Un destino che gli inglesi d'America vorrebbero riservare anche al vostro popolo». Mentre assisteva al procedere del corteo, Philip ebbe una visione. Londra estesa quanto il mondo. Un'unica enorme escrescenza, fatta di palazzi e torri svettanti, abituri fatiscenti, slarghi scenici, fontane e giardini, intrichi di viuzze dove il sole non giungeva mai. Un mondo edificato, messo in opera, pavimentato, lastricato, puntellato. Un mondo in costruzione, stratificato, rovinoso, marcescente. Un mondo di luce artificiale, molte tenebre, salvezza per pochi e condanna per la maggioranza. La nobile città di Londra e Westminster. Pisciò l'ultima pinta contro un muro di mattoni e riprese la camminata, finché il paesaggio dei sobborghi lasciò il posto alla campagna. Philip giunse in cima a una salita e si guardò alle spalle. Le ultime case di Londra gli stavano mezzo miglio. Sulla città gravava un manto plumbeo. L'uomo si guardò attorno. C'era nell'aria un vago sentore di primavera. Decise che era giunto il momento di tagliare per i campi. «No, non qui! C'è qualcuno laggiù, sotto quell'albero!» L'uomo aveva appena deposto una piccola cassa di legno e stava passando sulla fronte un fazzoletto sudicio. «Che vuoi che gli importi, donna? Qui va bene. Guarda i bambini, sono stanchi. Non mangiano da ieri mattina e neanche io, se è per questo». I cuccioli umani si erano seduti in riva al fosso, esausti e infreddoliti, stracci bisunti, capelli arruffati, stretto l'uno all'altro per tenersi caldi, grumo di carne smagrita e ossa. La donna era il ritratto di una miseria rassegnata. L'uomo era un triste spaventapasseri. Mostrava macchie di pelle grigiastra sotto toppe cucite alla meglio, ma non rinunciava a un'assurda, antiquata parrucca. «Tu e la tua mania per le formalità», proseguì. «Dobbiamo dare l'addio a Billy, tutti assieme!» «Certo, madamigella, ma io dico che era meglio lasciare i pargoli a casa a mendicare, in modo che magari stasera riempivamo la pancia. Guardali, poveri bastardi, non ce la fanno più!» La donna scoppiò a piangere. «Fammelo guardare per l'ultima volta!» L'uomo assunse un'espressione computa. Levò dal capo il tricorno e aprì la cassa. Un corpicino secco, vitreo, coperto alla meglio da una blusa rattoppata e nient'altro. Impossibile dargli un'età. Poteva avere 4, 5, 6 o 7 anni. Dipendeva da quanto cibo era riuscito a inghiottire prima di rompersi. Mentre la donna piangeva e i bambini si lamentavano, giunse sul luogo delle esequie l'ultimo della famiglia, barcollando su tre zampe. «Non so che mi trattiene dal farti arrosto», disse l'uomo, mollando un calcio al cane. L'animale guaì, senza convinzione. L'uomo estrasse una piccola vanga dalla fascia legata in vita. Il pianto della donna si fece più alto. «Dio, Dio, perché hai voluto prendere il mio Billy?» «Va bene, vediamo di sbrigarci», tagliò corto l'uomo. «Voglio portare i bastardi sul Tamigi per la bassa marea, per vedere se trovano qualcosa di buono da vendere. O, come vero Dio, finisce che vendo loro». La donna continuava a piangere. L'uomo aveva scavato mezza buca e già si era accasciato privo di forze. Uno dei bambini lo tirò per la manica. Qualcuno si avvicinava. Lo sconosciuto alzò la mano destra in cenno di pace. Per tutta risposta, l'uomo brandì la vanghetta, gli occhi spiritati. «Che volete da noi? Non abbiamo bisogno di nulla!» ringhiò. «Vorrei terminare il lavoro che avete iniziato, signore». Il nuovo venuto indicò la fossa. Un movimento impercettibile, uno spostamento d'aria. La vanghetta cambiò proprietario. La donna portò il palmo destro alla bocca ed emise un mezzo grido. «Voglio solo aiutare», disse il nuovo venuto. L'uomo, stremato, crollò a sedere. La donna riprese a piangere. L'estraneo finì di interrare la cassa, poi ristette in piedi, davanti alla piccola tomba. «Guarda, marito, sta pregando», disse la donna. L'uomo deglutì. «Sì, moglie, preghiere papiste. Oi, dico, vorrete mica che nostro figlio vada all'inferno? Fece per alzarsi, ma la moglie lo trattenne. Lascia perdere. I suoi occhi arrossati erano gonfi di pena e rassegnazione. Credi che per Billy faccia differenza? L'uomo reclinò il capo, mentre il sole impallidiva ancora.